nel movimento skinhead, dove fittazioni di guida che cresce giorno dopo giorno, distrugge tutto quello che abbia creato. I nostri ideali non devono cambiare, giustizia e libertà bisogna conquistare. Viviamo tutti i giorni senza paura, l'odio che c'è in noi aumenta di misura. Sicuro, la raspa del culo di questo.